L'evento della settimana è proprio l'incertezza politica derivante dal risultato delle elezioni tedesche e anche dalle elezioni locali, oltre che da quelle politiche. Il motivo principale è proprio il fatto che, se da un lato diciamo la coalizione di Angela Merkel è risultata comunque vincitrice dalle urne, il risultato di AfD, del partito populista di destra, che comunque incarna, diciamo, l'euroscetticismo in Germania, è risultato superiore alle attese, e i socialisti, i socialdemocratici, non si sono pronunciati rispetto alla possibilità di entrare in una coalizione di governo con la CDU, portando appunto gli operatori, diciamo, a credere che il governo sarà formato dalla cosiddetta coalizione Giamaica, quindi quella formata da CDU, Verdi e SPD. Tutto ciò si è ripercosso sostanzialmente in un calo dell'euro rispetto al dollaro, in parte appunto dovuto al fatto che gli operatori hanno venduto euro a seguito di questo risultato, il che è testimoniato anche da un aumento dei rendimenti dei titoli di Stato dei paesi dell'area dell'euro, il che è un chiaro segno che molti degli operatori hanno venduto titoli denominati in euro. E in parte, diciamo, la diminuzione il deprezzamento dell'euro nei confronti, ad esempio, del dollaro è dovuto anche, dall'altro lato, ad un apprezzamento del dollaro rispetto all'euro, dovuto principalmente alle aspettative legate al comportamento della Fed nei prossimi mesi. Infatti è opinione ormai comune diffusa nei mercati che è probabile che la Fed alzerà di nuovo i tassi, come anche fatto presagire da alcune dichiarazioni del board della Fed in questi giorni, e anche dal fatto che in generale l'economia americana, almeno secondo quelle che sono le metriche utilizzate dalla Fed per giudicarne lo stato di salute, sembra appunto essere in buona salute, e ci sono aspettative positive in merito agli esiti della riforma fiscale annunciata da Donald Trump. Cosa succede oltre a questo nell'Eurozona? Le aspettative, come dire, deluse dai mercati non sono soltanto da attribuire alle elezioni tedesche, ma anche probabilmente al fatto che i dati sull'inflazione sono ancora deludenti rispetto alle attese predisposte dalla Banca Centrale Europea, nel senso che è scesa sia rispetto alle stime l'inflazione generale, quella che comprende quindi tutti i beni e servizi venduti nell'economia, ma soprattutto l'inflazione core, quella che contiene i beni fondamentali e quindi quella che è il vero faro, diciamo, utilizzato dalla BCE per giudicare gli effetti della sua azione tramite il quantitative easing. Infatti Mario Draghi lunedì scorso ha rimarcato proprio la necessità di continuare ad andare avanti con il quantitative easing, proprio perché l'inflazione stenta ad aumentare e ad avvicinarsi a quel 2% che comunque costituisce l'obiettivo politico statutario della BCE. La persistenza del quantitative easing è una forza che di per sé porta gli operatori a vendere euro, proprio perché continua, diciamo, a persistere un periodo di tassi di interesse più bassi rispetto alle medie storiche degli anni scorsi per tutti i titoli appunto dell'area euro, e questo sicuramente da un lato può creare delle pressioni, come anche abbiamo avuto modo di discutere la settimana scorsa, all'interno del board della BCE, dove appunto e da un lato il risultato delle elezioni tedesche e la delusione legata al mancato raggiungimento degli obiettivi sull'inflazione può portare a continuare il QE senza troppe resistenze tedesche, ma dall'altro naturalmente c'è sempre una forte pressione per gli elementi, per i cosiddetti falchi del board della BCE, quelli più vicini, diciamo, all'impostazione teutonica della politica monetaria, che comunque continuano a spingere fortemente per una ritirata della BCE dal suo programma di quantitative easing, che a detta di molti continua, diciamo, a tenere in vita la zona euro, nonostante appunto gli stati facciano sempre più fatica a rispettare quelli che sono i parametri sul debito PIL e sul deficit PIL. E l'unica componente di fatto che negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, ha tenuto comunque positiva la ripresa del PIL nell'Eurozona sembra essere, dagli ultimi dati giunti la settimana scorsa, un mix di esportazioni nette che continuano ad essere positive e credito privato che leggermente, sicuramente comunque fuori tempo massimo, riparte, anche se comunque in maniera sicuramente non sufficiente ad abbassare la disoccupazione nei paesi che hanno maggiormente sofferto la crisi. Il Financial Times titolava pochi giorni fa che nell'Eurozona il dato sulla disoccupazione, il dato medio, è il più basso dal 2009, ma ancora continuano a persistere delle differenze significative in tutta l'area, in particolare per Italia, Spagna e Grecia sicuramente le cose non migliorano da questo punto di vista. Ecco, facciamo, provo un attimo a vedere se ho capito, perché la settimana scorsa dicevamo che il problema è che l'euro era uno dei problemi, insomma, che l'euro era troppo apprezzato. Adesso si è un po' deprezzato, ma non nel modo giusto. Ho capito giusto? Esattamente, esattamente. Sicuramente non quanto basta per continuare a spingere in alto le esportazioni nette a sufficienza. E diciamo l'effetto è chiaramente un effetto di breve periodo ed è legato principalmente a questi due fattori, uno politico, quello sulle elezioni tedesche, e l'altro prettamente diciamo economico, ma nel senso di un'inflazione che testimonia un'incapacità della Banca Centrale Europea o comunque un'azione non sufficiente a tirare in alto l'inflazione, cosa che peraltro viene discussa anche diciamo nelle principali sedi delle banche centrali. E è proprio della settimana scorsa una dichiarazione di Vitor Constanzio, che è appunto uno dei principali esponenti del board della BCE, che proprio ha in un suo discorso riconosciuto come negli ultimi 10 anni il consenso, diciamo, sia della teoria economica che della pratica delle banche centrali ha reimparato, per così dire, una lezione dimenticata, che poi era lezione keynesiana, cioè che le crisi da domanda esistono e quella dell'Eurozona ha rappresentato un caso di crisi da domanda evidentemente, ma che le si può combattere, le si può superare soltanto grazie non soltanto a stimoli espansivi da parte delle banche centrali che servono a tenere bassi tassi di interesse, ma, ed è appunto il contenuto del discorso di Constanzio, anche attraverso uno stimolo della politica fiscale. E in particolare il discorso è molto significativo perché sottolinea come diciamo l'orientamento economico degli anni 90, in particolare della fine degli anni 90, individuava nella politica fiscale uno strumento inefficace, che si pensava che comunque i consumatori non rispondessero ad aumenti del disavanzo pubblico con aumenti dei consumi, la realtà ha dimostrato in negativo che questo è comunque vero, nel senso che i tagli pesanti alla spesa pubblica e gli aumenti della tassazione hanno influito negativamente in maniera molto pesante sui consumi. E quindi da entrambe poi le sponde dell'Atlantico, perché poi le dichiarazioni simili pervengono anche da parte di esponenti elevati della Fed, si riconosce come le banche centrali siano ormai arrivate al margine della propria azione e come siano i governi che devono cambiare registro in un certo senso. Se abbiamo visto accadere questo negli Stati Uniti, nell'Eurozona si continua, diciamo, sulla stessa scia di austerità su cui si è continuato negli ultimi anni.